Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Non ci sono dubbi sul fatto che le detrazioni fiscali del 50 e del 65% dedicate rispettivamente alle ristrutturazioni edilizie e alla riqualificazione energetica degli edifici siano state una misura vincente, perché hanno sostenuto una industria edilizia in profonda crisi e sono costate pochissimo alle casse dello Stato. Benissimo dunque che il governo abbia deciso di prorogarli questi incentivi, e forse per la prima volta per un periodo superiore all'anno, dato che le proroghe di anno in anno degli ultimi governi hanno ucciso di fatto nella culla tutte le riqualificazioni con un minimo di complessità. Allo stesso tempo però l'idea del Ministero dell'Economia è che con un orizzonte di incentivi stabile sul lungo termine molti italiani finirebbero per posticipare l'intervento, e così andrebbe a farsi benedire la funzione di stimolo all'economia che in questa fase recessiva le detrazioni fiscali hanno dimostrato di avere. Quindi incentivi sì, e con un orizzonte superiore all'anno, ma non di lungo periodo. Due anni e poi una netta riduzione. Questa sembra essere la ricetta individuata. Ci chiediamo, è sufficiente questa ricetta a rilanciare su vasta scala un rinnovamento del parco edilizio italiano? Ebbene, punti deboli di questa impostazione e anche possibili proposte per superarli sono emersi in un recente convegno, tappa italiana della campagna europea di riqualificazione edilizia Renovate Europe, proposte di cui vogliamo parlare con Mario Tramontin, presidente di Assiren, associazione che nasce proprio con lo scopo di sostenere la campagna Renovate Europe in Italia. Buonasera Tramontin. Buonasera Maurizio, grazie di essere farmi intervenire a questa trasmissione. Allora, partiamo da qualche dato che voi avete portato al convegno, che ci aiuta quindi a capire dove stanno i problemi, i limiti di questa impostazione. Ma è molto semplicemente, nel periodo 1998-2014 le famiglie italiane hanno investito 190 miliardi di euro tra recupero edilizio e riqualificazione energetica. Di questa la riqualificazione energetica sono 27 miliardi sul 14%. Se poi vado a scavare ancora più in profondità, la vera e propria deep renovation è un valore risibile, stiamo parlando meno dell'1% dei 160 miliardi di cui abbiamo parlato. Allora Tramontin, questi dati sono il risultato di una serie di problematiche che sono appunto emerse durante il convegno, per esempio il delta che esiste tra 50 e 65%, probabilmente troppo risicato, il fatto che molte persone sono incapienti fiscalmente, non pagano tasse o ne pagano molto poche, magari semplicemente perché sono pensionati e quindi non riescono ad avvalersi delle detrazioni fiscali, e altri problemi ancora, di cui domani parleremo insieme appunto a qualche proposta per cercare di superarli. Adesso invece vorrei farvi ascoltare qual è stato il commento di Adrian Joyce, direttore della campagna Renovate Europe, che era presente al famoso convegno dove anche noi ci siamo incontrati, che ha un'idea molto precisa a proposito degli effetti di incentivi con un orizzonte temporale troppo corto. Sentiamo. Per quanto riguarda le riqualificazioni energetiche, nei paesi che hanno adottato schemi di incentivazione a breve termine si è visto chiaramente che si tratta di una pessima idea. Prima di tutto perché incoraggia la nascita di aziende improvvisate, che non hanno le competenze per fare il lavoro come si deve. Poi perché si causa un boom nel mercato. Tutti vogliono fare tutto subito e questo fa aumentare i prezzi perché c'è troppa domanda e un'offerta insufficiente. E infine perché non appena gli incentivi finiscono, la domanda crolla e molte imprese finiscono per fallire. E così viene sprecato tutto quanto si è acquisito in termini di competenze e esperienze. Quindi mai, ripeto mai, incentivi start and stop per il mercato immobiliare. E se invece gli incentivi vanno giù un po' alla volta, con un decalage lento e costante su un orizzonte temporale lungo? Questo invece può andare bene. Se per esempio si stabilisce che ci saranno incentivi per 20 anni e che dopo i primi 5 anni inizieranno a diminuire di 3 o 4 punti all'anno, questo funziona. Così le aziende hanno tempo di adattarsi, ma niente incentivi start and stop, è molto importante. La riqualificazione energetica è un processo che genera dei risparmi economici, perciò nel medio-lungo periodo si autosostiene. Però serve il capitale per partire, soprattutto se pensiamo all'edilizia pubblica, e molti paesi si chiedono di questi tempi dove prenderlo. Ebbene, vorrei ricordare che da quest'anno i paesi europei hanno iniziato a intascare il pagamento dei cosiddetti carbon credit, cioè le tasse sulle emissioni di carbonio. Suggerisco a tutti i paesi dell'Unione di usare questi soldi per sostenere la riqualificazione edilizia. Perché? Ebbene, uno studio pubblicato all'interno del Cambridge Econometrics Report del 2013 dimostra che se la Gran Bretagna userà gli introiti derivanti dai carbon credit, che rappresentano un introito sicuro, per rinnovare gli edifici, in 10 anni potranno eliminare completamente la povertà energetica dal paese e che inoltre, tra energia risparmiata e gettito fiscale generato dalle attività edilizie stimolate, tutto questo non costerà niente al governo. Sono sicuro che per l'Italia è lo stesso. Bene, era Adrian Joyce, direttore della campagna Renovate Europe. Mario Tramontin, noi ci risentiamo invece domani e cerchiamo di dare anche qualche possibile soluzione ai problemi di cui abbiamo cominciato a parlare questa sera. Assolutamente, ci vediamo domani sera. A domani!